sull'amplificatore, ma sarà anche sull'accordatore esterno, beh. Va bene. Ok, vediamo un po' se c'è qualcuno fuori. Allora, sul speaker della stazione si è attenuato, praticamente quando è tutto attenuato mi fa da più 30 a più 60 con i picchi. Mi dispiace per Antonello che ce l'ho vicino, ma l'ho fatto quadrato, non c'è che l'incendio quel cazzo di radio che c'è. Ha fatto quello sì. Perché gli ho telefonato, ho detto di spegnere la radio. No, perché la... Allora, aspetto tutto. Che a me, lì, che non c'ho parecchi che voglio buttare per adesso. Tu mi hai mandato un messaggio a Gianni Capruro, ha detto, ma chi mai muro se sei, se? No, a Tattari. Antonio, andiamo a mettere sto cazzo di capo, dai. Mi si è acceso dalla 48 da solo, cazzo. Mi arriva oggi la 9 più 30, io sono 9 più 60. Ma guarda tu. E insomma, già si sentono i batte. Adesso mi sono rotto le balle, Fabio. È poco importante, cagagazzi. E se vedi ci giochiamo, Cosa c'è? Oi, muscolo! Aspetta che ti giro appena l'antenna, va. Gira. Allora Fabrizio, adesso proviamo quell'Incon, aspetta, lasciatemi il tempo di provare, dai. Oh, te l'ho restituito? Sì, aspetta il piatto, va. Vabbè, vai al 20, dai, che qua c'è un quesio, vai al 20 e così abbasso un po' di potenza, dai. No, aspetta, te lo devo piazzare, poi ti chiamo, va. Aspetta un attimo, devo fare un po' di pulizia qua. Ehi, va bene, dai, così facciamo qualche prova. Riprendi Fabio, fai girare tu, dai, che aspetto attimo, poi mi sposto. Cappa, vediamo se c'è ancora Double Room. Double Room, che sei? Davisù, sopra 9. E via. Quindi hai deciso di metterti l'antenna sul tetto, Fabio? Cappa, dai, rifacciamo un po' la stazioncina. Facciamo una calata, ci butto dentro 4-5 cavi. Così... 9 mega se magari riesco a ricevere un po' meglio un paio di autocostruite, poi pensavo una telluccia nuova così che avevano a 50 anni. Quanto è? Dimmi. Altro messaggio a Gerino, 9.40 al ghiaccio arriva. Hai visto? Bisogna fare così ogni tanto. Io. Ok. Pompa. Adesso ne ha fatto anche le batterie, ma la partita lì, ecco, va bene. Scappa. E cosa vuoi mettere di antenne, mi hai detto? Autocostruite che cosa? I poli. Cavolo, ma sta facendo un po' basso il radio, nel senso che mi arrivi basso di segnale e forse c'era un rumore sotto, un cuore un po' alto. Antenne, ho capito antenne, stavo guardando una LEM interessante, che costa anche relativamente poco, e niente, pensavo di metterci una mano, io sono quello vecchio, le mano, ma so che non si trovano, quello che si trova è un mezzo pasticcio, secondo me, diciamo che è una minestra riscaldata, che non so nemmeno come funziona, e ci vogliono 300 euro. No, io le avevo trovate, fuori, ce l'avevano sì la Mantova Turbo che era la Mantova 5. E quanto ne volevano? 100 e qualche cosa. Ma nove? E allora, bici. Una ditta che le stava vendendo fuori, ma non c'era in Italia. In Italia non acciacchi, sarà una parte di magazzino, capito? Ah, mi sa che mi danno una dritta questa cosa, perché boh, ho visto l'EM, super l'EM, adesso stavo guardando, ma... Sì, ricordo di una LEM che andava benissimo, una LEM che andava benissimo, però guardiamoci in fondo agli occhi, ci vuole la Mantova. Tu metti venditori Mantova. Hai mandato l'ambulanza a prenderti. Senti. Arrivano a fare il teclato. L'anno scorso che li ho cercati. Anzi no, nemmeno, ho cercato prima di prendermi la Game Master, perché ho deciso sulla Game Master o sulla Mantova. Purtroppo sono un po' schiacciato. C'era Antonello che era impodrato, voleva fare abbastanza D'accordo, l'ambulanza, allora la voleva mandare a casa di Claudio, capito? Ah, è Zibo, c'è lì prima di me. Lui l'ha già portato. Claudio. Ah, uscire. Cosa hai detto, Fabio? Claudio. Oia. Ehi, là, l'ho attaccato. Grazie, finalmente c'è bene con la radio. Com'è, va bene? Ah, certo, va bene, alla grande. Questo è il microfono, il standard, quello nero. Lo standard, quello che ti ho dato io? Sì. Va bene, modulazione 5, perfetta, amplificata, ottima. Va bene, non so quanti watt stia dando, comunque, già, sembra che si difenda bene. Va bene, va bene. Tutto a posto, andiamo avanti, Va bene, aspetta che faccio una cosa, aspetta. E cosa ti ha detto il dottore? Cosa ci aveva? Un casino. Un casino, cla. Fa la cortesia, dammi un controllo così a vedere com'è. 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3. 9, 10, sì. 9, 10, guarda un po'. Guarda se sta migliorando. Ora, 1, 2, 3, prova. 9 più 15. Lì più non va, Questo è un altro lineare che scoppia. Non credo, no. E comunque non è scoppiato niente, perché mi ha telefonato e sta a posto. No, io non ho sentito niente, invece c'era una portante a 9 più 20. Stavo contando su un 11 alfa, caro. Vabbè, se dici l'11 alfa, allora arrivavi tu. No, non ho sentito niente, tipo c'era Antonello che stava accordando e ti ha coperto. Ho detto che mi hanno chiamato, ma non è successo niente di, grazie a Dio, niente di grave, dai. Sicuramente ha un'antenna messa male, no, non so cosa dirti. Comunque, a quanto l'ho detto, aveva l'antenna piena di onde elettrostatiche. Ma di chi stai parlando? Sei capri due. No, io sto parlando della tua radio. L'ho già accennato a Fabrizio l'altro giorno, secondo me appunto era tutta spostata sulle medie frequenze, tutte le i valori e tutto. Infatti è andato su quello lui. Boh, non lo so. Vabbè dai, che la sistema, la tolgo da. Ce l'ho sopra le altre radio, non va bene. Vabbè, se vuoi fare qualche prova, chiama, già sono qua, dai. Sì, devo collegare un po' il tutto, dai, adesso vediamo. Ehi, già sono qua in ascolto, vai Antonio. Qui l'ho cambiato tutto. Me l'ho immaginato qua. No, Antonio mi ha chiamato. Mi ha chiamato e mi ha detto che niente, sicuramente c'è onde elettrostatiche nel cavo, non so, un casino, sto dicendo. Perché andare con lui va, è un muletto, eh. Ma perché? Te lo chiamo, è andato scendendo, ma tu non hai visto una cosa del genere? Ti dava anche la tua... Vedi che sei stato, ma prima scendeva, ma perché a padre mi? Ma perché? Evidentemente oggi ho il cavo che non ha retto con quei watt lì, o se no è qualcosa che c'è che non va senz'altro, La carica dell'antenna, non so cosa dirti. Oppure l'apparecchio magari. Ha fatto rientro dalle frequenze e si è incendiato tutto. È una cosa da trovare. Se tu hai stazionare l'antenna e c'hai 1,5 e ti metti a caricare con lineare, sale a 2,5, poi a un certo punto fai piano piano, la prima volta che non ti si imballa tutto. Sì, vabbè, però c'è da dire una cosa, che la radio che sta utilizzando lui da più di 10 watt, poi hanno durato chissà quanto, quindi è logico che io quando li ho provato con un apparato a 2 watt di modulazione, poi andava a aumentare, però era a 2 watt di entrata, capito Antonio? Ti ho capito, anch'io... C'è 200, senti, ma c'è 200, arriva più di 25.000 ampere di volts. Lineare, adesso scelta, aspetta un attimo, ecco adesso sono a 20, adesso sto pilotando di meno, e c'è lo speed CTR, come sto scendo? Ma come pretendi che io, soprattutto a Antonello, ad dato una risposta. Abbiamo parlato assieme, ho capito, ma ti ho chiesto di dirigere, dopo ci ricordo. Passo, passo, passo. Sì, è dato, ho fatto le prove anche insieme a lui. La 3 a 7 a Muros, quindi la radio non distorceva, andava bene, a quanto mi ha detto Claudio, mi ha ascoltato lui. Oh, troppo carino, raga, io vi saluto. Aspetta, aspetta, non stavi facendo le prove, quindi non so cosa dirti. Pensavo era venuto a prenderselo e lo stava già provando e per quello ho capito male io, dai. Sì, sì, Claudio. Ho fatto le prove, giusto prima di darglielo, volevo farglielo sentire, perché se poi magari non era contento è inutile farlo venire qua. È stato contento, gli è piaciuto l'incremento che ha avuto da 3 a 7, è stato contento anche della radio, perché ha detto ma la radio va bene, guarda, la senti, la bla bli bu bu, va benissimo, ok, contentissimo, sono venuti a prenderlo. L'hanno approvato quando io non ero in frequenza, così mi hanno detto che insomma è andato un po' maluccio, dai, diciamo, perché sicuramente hanno stazionarie nell'antenna e è stato pilotato male, lo penso. Ecco. Scusate un attimino, devo allontanare, dai, lo riprendo subito. Sta parlando Capri 2 da Muros, chi è il Brecco? Io sono, io, ma mi ascolti, tra 9:20 Radio 5. Sapevo che sta arrivando Capri 2, cazzo, è proprio messo male. Quanto ti sta arrivando, Antonio, a te? Come stai arrivando Capri 2 a me? È come se fosse l'antenna in corto. Io lo sto prendendo con la coda dell'antenna di Santiago 5. Santiago 5 stai arrivando, Ma sì, Santiago 5, cioè a casa mia arrivi Santiago 5. Lì ci arrivi 9:10 tu, quell'antenna non va bene, c'è qualche problema. No, Santiago 5 stai arrivando. Carica di sassi è. Ma c'è qualche problema, perché non è possibile. Se sei a letto è come se avessi sciolto l'antenna, Semi. Capito? Ma mi sembra un po' strano, ma non è che c'è qualche piede in conto. Ascolta, fai una cosa. Stacca il lineare e fai attacco diretto al baracchino. E controlla la stazione un secondo. Senz'altro c'è qualche piede in conto, perché non è possibile, Santiago. Io ti ascolto Santiago 3, tanto mi hai sentito così. Cazzo, adesso è Santiago 4. Stavo calando. Santiago 7 è qua, ma radio non ce n'è. Ma è Santiago 5, Massimilia, fatti il conto. Sta usando quelle lineare. No, c'è l'antenna che non va bene, c'è qualcosa che non va. Guarda il mio segnale, Massimiliano, e dimmi se la radio è buona, può andare. Che sono al massimo della potenza col Cobra. Sì, a fondo scala, non ci va di più. Va bene, va bene. Proprio incollato. Ascolta, io sto andando con 50 watt invece, Pico positivo, sì, 9 più 30 anche tu. Tutti bassi, Ma tu lo senti a Capri 2? Santiago 5 mi sta arrivando a me, roba davanti, tiro. Santiago 5 mi sta arrivando. Ma problemi di antenna allora, dai, o di capo, qualche piede di soldato, magari sta andando buco da gioco, col caso. Ma quando mai in una stazione non ci deve essere un rosmetto, cazzo, a controllare la stazione, poi io non comprendo questa cosa. Io ti dico, Massimiliano, qua il suo segnale normale è 9 più 10, 9 più 10, capito? Mi sta arrivando Santiago 5, fatti il conto. Sembrano belle, invece si disperdono nell'ambiente. Cosa? Vabbè, non lo so che impianto ha, quindi non ti posso dire cosa sta utilizzando e come lo stia utilizzando. Io ho fatto una prova stasera e è andata più che bene. Ho capito, però quello che ti voglio dire è di in una stazione radio il rosmetro è importante, capito? Cioè non dico ogni giorno, ma almeno una volta nei due giorni gliele vuoi controllare stazionario. Qua non c'è il radio, mi Gianni Capri 2, non hai il radio, capito? Segnale 7, ma radio non ve ne è. Ma c'è qualche problema sicuramente. Fabio, ma tu lo senti a Gianni Capri 2? Sì, Fabio, scusa, mi sembra, se mi sbaglio. A me come ascolti di segnale Massimiliano? Ciao Antonio, buonasera, ben ascoltato. Come segnale? quella stavo usando lo studio CTE, che l'ho fatto al minimo. Claudio, guarda che ti ho mandato un video. Sì, lascialo arrivare Tino e poi vediamo un po'. Ti è arrivato. Ehi, ehi, adesso lo guardo. Cos'è che stai usando tu, Antonio? Lo Spirit CT sto usando, come sto uscendo? L'ho fatto al minimo. Già stai uscendo bene. Ok, tu stai usando la parete di tuo cognato. Si parte, cara, si sente da bip. Io sono qua da mio cognato. Ah, pensavo che fosse... avete quasi lo stesso segnale, la verità, Stai uscendo bene comunque, a voglia. Ma non avevo dubbi. Salutamelo Gabino, salutamelo. Gabi, io fammi. Ciao Gabi, saluto, non avevo capito che... Io pensavo che in pratica... Allora, io avevo pensato un apparecchio a lui, perché sento lo stesso segnale, tra l'altro. Ascolta, un rumore di vento la si sente? No, assolutamente, si sente un rumore di donna che sta parlando. Cioè, mia figlia con la madrina che si stanno scornando. Allora già va bene, in pratica c'è un rumore di alternata. Quando ti arriva Antonello, sì Tino, ma devi farlo sul parlato, anche se fischio passa 200 il B300, capito? Però sul parlato devi guardare quante volte là. Quanto ti arriva Antonello, Massimiliano? Prova Antonello. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Quando schiaccio sale a 25 mA. Il volto, ma già lo conosce Claudio, questo lineare, che l'ha avuto vuoto con un picco negativo a 20. 9, 25, 6, qua. Il mio è più alto. E tu è collato, bravo. Devo fare qualcosa, allora non va bene così, non va bene assolutamente. Ma chi c'è rimasto in questo canale? Gianni ancora c'è. Aspetta, guarda a vedere come va adesso questo. Io ci sono sempre. Adesso va bene. Va bene Tino, va bene. Dai, sto provando varie cose, capito? Quindi giusto per capire con cosa lo posso abbinare. Mettere una giacca e un pantalone e lascialo stare in ciabatte, vedi che già funziona bene. Avanti, doppio lui, riprenditela tu e fai girare. Oia, in definitiva Tino si sa cosa avesse esattamente, era bombo di Roma. Cos'è già? Ciao. Ciao Tino, detto in definitiva non si sa cosa avesse il prigine. Cosa avrebbe? Detto di più, un po' di roba, incasinata però. Ah, allora era stato toccato forse. Vabbè, quando è così è un casino, non metterci mano, vabbè. Ma Fabrizio è miracoloso, va. K-Gamma, avanti Fabio. K-Gamma. E insomma, ci stiamo sbattendo un po' di potenza qua. Sì. Ma questo è un po' come quando vedi quelli che hanno la macchina che ti vogliono sorpassare, capito? Uguale, cioè lo spirito è lo stesso, ora ti sorpasso, è la volta buona che scavo due marce e non li vedo neanche nello specchietto. Vabbè. Poi ci sono quei fatti che sorpassano dove non possono, si trovano la macchina da battere due uomini. Io Fabio, quando devo sorpassare uno sai cosa faccio, le metto l'importante. Sì, tutti uguali siamo. Perdo le ruote e le metto l'importante. Com'è l'importante qua? Ho detto, quando devo sorpassare qualcuno in macchina io, capito? Le tolgo le ruote e gli tiro a testa, solo le metto l'importante. Anni fa, mentre facevamo la gara della potenza, eccetera, io avevo una 1 modificata qua, di quel tipo, cioè il 1700 benzina della Alfa Romeo non la passava da 1,45, capito? Belle macchine, sì, anche a me piacevano molto le Alfa, infatti sono tornato all'Alfa, adesso vediamo se quest'anno riesco a cambiarla, la cambio, prendo la Giulia, la nuova, mi piace troppo. Va bene, già mangiato avete Massimi? Sì, no, ma noi siamo venuti dopo cena, capito? No, abbiamo mangiato presto oggi. Hai fatto le analisi stamattina, stasera potevi mangiare, mi? In che senso? Ho detto oggi a pranzo? No, cos'è che mi hai detto? Ah no, ieri quello, ieri, mi hai detto devo mangiare leggero perché domani mattina devo fare gli analisi. Ma che cazzo leggero, mangio metto un litro di vino a rimane a notte, cosa leggero? Vabbè, che cazzo ce ne frega, intanto analisi del sangue non te ne hanno fatto, quindi cosa giamba? Ma non sai cosa mi hanno fatto? Vabbè, qua non si può dire. Beh, anche a me ogni tanto, anche a me fanno così, ma si vediamo, ma non è niente. Sono sicuro che ti hanno misurato il cornicione, così è. Bravissimo. Allora misurano tutti il cornicione, fa parte delle analisi, è sempre quello ce lo fanno a tutti, capito? Per vedere non si sa mai che magari mentre stai martellando ti si rovina, no? C'è un problema però, è la sottomisura. E due mascelle di buoni. Maledetti. Arti. E tu hai mangiato Arti? Sì, digerito pure, mi sto bevendo una birretta nel frattempo, dai. Dopo il mirto, credo, sarà. No, ma che tu sei riuscito a mezzanotte? No, mio figlio mio sta mangiando. Così è meglio, sì. Va bene, là. Io mi vedo i picchi negativi questa radio, aspetta, i picchi negativi. Comunque facciamo così, ci troviamo tutti sul 20 verso 2 del mattino, ci facciamo una bella spaghettata. No, no, no, io sono a dieta. Io i miei 10 kg ho già persi, non voglio tornare indietro. Guarda, c'è una novità in merito, per quanto riguarda la chetosi. Stava parlando un amico chimico, capito? C'è una cosettina di una cosa particolare che ha fatto un prodottino, prendere peso, ma non per scherzo, ma non con queste minchiate di pastiglie, non sarà più un problema. No, Fabio, ero quasi 100 kg, ma non tenendo. Ho già superato i 90, problemi alla schiena, casini, no. Sto andando di lusso e voglio continuare. KK, dimmi Gianni Capri 2. Le stazioni stanno scendendo, ma il segnale lì è tra il 6 e il 7. Non è che cambia molto, Gianni. Cioè qua tu a casa mia, lo sai da anni, sei sempre arrivato 9 più 20, normale. Quando poi ti sei messo a attaccare qualcosa, arrivavi anche 9 più 30. Cazzo, non posso vedere io un paese di fronte a me che mi arriva a Santiago 6. Hai capito? Ma neanche il più basso del mondo mi arriva a Santiago 6 a me. I più bassi segnali sono 9, Gianni. Devi fare qualcosa con questa antenna. Impiega per un 2, Antonello, rispondi tu che vada bene. Ma secondo me tu c'hai la carica sciolta di quell'antenna, te lo dico io. È capitato a me con la BA27L, il giorno che ho lanciato a lineare a casa di Mario Manser. Ho lanciato la BA27L, gli ho messo 600 watt, quanto è durata? Neanche un minuto e mezzo, non di più, ha fatto il segnale, erano scendendo piano piano, quindi che ho toccato la carica, era completamente sciolta. Tu hai fuso l'antenna, quindi cambiati l'antenna e vedrai che esci bene. A meno che non c'è qualche PL di quelli Teflon. E quando ha attaccato linea si è fuso il PL e a un certo punto. No, io non so che antenna c'è, la verità perché non lo so. E io a lei ha fuso l'antenna come abbiamo fuso quella in quel caso, in quel giorno, te lo ricordi? Se sei 7,4 nemmeno, mica arrivavi 9,10, meglio lo sai. Quindi cambiati tutti i piedi la mattina, sali sopra il tetto, ti cambi tutti i piedi e te li metti in bacchilite. E col tester ti controlli l'antenna. E io, controllati tutto, guarda. Ma una cosa, ho capito che antenna stai usando. Tipo 90 qua. Una Siria sta usando 5 ottavi. Sì, ce ne sono tante, ma quale? Non lo so che tipo di Sirio è, che tipo di Sirio è? Nyugu Tornado, cos'è? È la solita di Yogi e Bubu, che antenna è? Cazzo, non la conosco io quella. Perché io non la conosco. Questa Yogi Tornado, tu la conosci, la solita di Bubu. Ascolta, ma dille se c'ha sei radiali. Avete parlato in due. Yogi Tornado si chiama, lo c'è? Non lo so. Ho visto che è un'antenna simile alla Mantova, ma sicuramente di Mantova ne ha poco. Non lo so Gianni, bisogna fare qualcosa lì perché altrimenti tu sei in grande difficoltà. Non arrivi più da nessuna parte. Avanti Massimiliano, fai girare per Gianni, fai. Ok, là. Va bene, non c'è problema. Se vuole una mano, già gliela diamo una mano. però bisogna che si metta qualche palo in più, capito, se è un casino. Avanti già. Sì, intanto è già bassa la casetta, è una casa bassa, già è una cosa facile da fare. Lui l'ha messa nell'angolo, Fruccio, no? Non so se tu l'hai mai vista, l'ha messa nell'angolo della casa. Sì, io l'ho vista, però già, io l'ho sempre vista bassa come antenna, capito? Quella vuole portata su, prima bisogna calarla e poi sollevarla. Ehi, ha sempre bassa la tenuta. Forse aveva paura del vento, cosa ne so? Ma basta mettere i tiranti che non vado a nessuna parte. Cosa ne so pure? Io ho piazzato questa Sirio cazzo da 4 soldi, 0 stazionarie, va benissimo. Che cazzo vuoi pure la Sirio che fai tu con quella, no? È completamente diversa, un'altra la signora antenna, un'altra bella uscimi. Sì, ma quella che c'ha Gianni Capri 2 deve essere migliore, perché è più nuova. Ah, cosa c'entra più nuova, non più nuova? Ma quella gente ha fatto la storia, Mambo Fulendici. Era pieno a sasse di quelle antenne, ce ne ho anche una io qua vicino a casa, ancora montata, vicino da 30 anni, piazzata, da Trico di Antonè, dove abitava Daniela, di fronte a Daniela. C'era ancora quella stella, la Sirio. Mi pare che era 12 radiali, ne ha 8, però è sempre dritta, perfetta. C'era anche Roberto Pinna, basta che vanno lì, apri due, qua c'è la stacca, c'è la Firenze 2 Explorer, figurati tu, e c'ha 12 radiali, lo stilo in pratica possa essere stretto con le viti, va stretto con la, c'è una cosa che affitta, capito? E si è sbucato da solo ed è a casa della moglie, è buttata lì con l'antenna sopra il tetto, basta che lui salta lì, se la stacca e se la porta via. Bisogna dirglielo allora, bisogna dirglielo. Con la monopanda mi sono Massimiliano, con la tre elementi proprio in mezzo a te lì, quella zona lì è puntata. Catanata! Ehi, vabbè, qua sei incollato proprio a fondo scala. Infatti il tuo segnale 9.30 abbondante qua, ti ho portato su anche di segnale. Ciao Gaia! Va buon signore, dai, vi saluto che mi devo spostare. Alla prossimina, ciao, buonanotte a tutti. Allora, siamo a mangiare. Ciao Tino, buona serata, buon tutto, ci sentiamo, ciao. Ciao, buon proseguo. Dove stai andando? A fare la pasta asciutta a mio figlio. Aspetta, sto scendendo. Ciao. Aspetta, io bacio, ho fame. Ehi, yeah, a babbo che c'ho fame, no, che lo va voluta. Dai, ci sentiamo dopo, DJ, sabato domani. Forse può andare là, vediamo. Devo sentirlo. Chi è? 5-9, chi è? Sì, Italia, Sardegna, Italia, Nord, Sardegna, Italy. Cazzetta piglia di cultura da Mara. Questo già è il serpente. Allora, serpente, c'ho la direttiva puntata verso di te e sono anche agganciato a quasi uno pieno. Buono. Avanti, Gianni, ma i picchi li prendete a fare? Guarda se sono positivi, fa favore. Prova a modulare. Guarda un po', forse sono troppo vicino, ma non so se... Guarda un po', 1, 2, 3. Segnale fisso. Ok, dai, va bene. Gianni Capri 2, mi ascolti? Capri, a controllare l'Alfa Lima. No, domani mattina io sono da casa di Roberto e dobbiamo tirare su un'antenna multibanda. Ma che controllo devi fare? Delineare? E cosa vuoi che ti faccia io? Io non mi comprendo nulla. Non lo so, non ti assicuro niente. Prova a chiamarmi, ma non ti assicuro. Domani mattina assolutamente no. Domani sabato e domenica non mi cercare. Lunedì prova a chiamarmi, se c'ho qualche buco, se non devo andare ad Olbia, magari ci faccio un salto. Vabbè già, usiamo i tic, speriamo che abbassi gli stazionari. Vabbè, avanti Antonio. Aspetta un attimino, Claudio. Oi, ti. Aspetta, sto provando una cosa. Guarda se cambia la modulazione, così è. Guarda, 1, 2, 3, prova microfonica. Si è cambiato o si è peggiorato? Questo è il primo passaggio. Questo invece è il secondo passaggio. Ha migliorato qualcosa? secondo passaggio è, va meglio, glielo abbiamo già fatto quelle prove se stai usando il present. Quel pulsantino non lo toccare, lascialo come te, secondo passaggio. Questo è il primo, guarda, questo è il primo e questo è il secondo, va meglio così? No, no, taponato, il primo passaggio, il secondo va in saturazione. Ecco, quindi va bene così, era per saperlo perché non mi ricordavo se voleva inserito o meno. No, no, l'abbiamo già fatta la prova con Fabrizio, anche quello abbiamo provato. Vabbè, ma io non l'avevo provato, capito, va bene. KK, non tocca se non tocca se. No, a me invece piace toccare, toccare di tutto. Tocca tutto, arroga tutto. Avanti, doppio rum. Grande, se calamagliato. Va bene, dai, ciao, ciao, divertitevela, mi sto spostando. Ma non mi hai detto quanto ti sto arrivando, però, cazzo, boh. Guarda, a questa radio Santiago 9, ma a questo Smitter, quindi ti do l'indicazione a quello che io vedo, eh. Ehi, ehi, molto generoso deve essere quella radio. Anzi, addirittura 8 con segnale 8-9, se vuoi ti attacco l'altra. No, no, lascia stare, lascia, futtidini. Già va bene, già va bene, già mi ha dato Massimiliano il segnale di Via Nulpi. Aspetta, per curiosità, beh. Qua sei incollato. Appunto, ci sono incollato in Via Nulvi, tu non è che sei molto distante, ti vedo. L'antenna è lì, nord, nord, è tra punta scorno, quindi passa in mezzo, prende anche un pezzo della tua zona, un pezzo della tua zona, sicuramente. Sono qua. Oh, yeah. Allora, 922. Già non è nuda. Qua è differente la cosa, però, sì. La ricezione è diversa. Se vuoi ti metto anche IP e la devi anche. No, era giusto così per capire, dai. Già va bene, già va bene. E lì in mezzo non è proprio puntata verso di te, dai. Forse ti prende leggermente con la coda. Ah, ho capito. Va bene, conclusivo, dai. Ehi, ehi, Attino, va bene, dai. KK, Antone, Fabio, Fanati, ti senti? Aspetta che avete provato in due, c'era un altro. A parte Claudio. E chi è l'altro? Boh, io non ho sentito nessuno. Ma questa è la portantina, Santiago 7, boh. No, no, avete provato in due. Cioè, tu Claudio un altro, però non ho capito né uno né l'altro. Mezzo sull'altra, sì. E qualche uno sarete la portante. Ma non ti vado di una più importante a Santiago 7? Ah, io Mosca, via, sciò. Qua è 9, qua. Sì, e tu sei 9.30, va, te lo gonto, non che senti. Vabbè. Va bene, dai, ti risposto un secondino io, parla un attimo da vino, dai. Gappa, gappa, gappa, gappa. Allora, sta accordando questo, Fabio. Il motore da macchina acceso e ci fa la portantina. Ma questa portante, ma io mi vergogno, Gert. E vuole fare danno, capito? Secondo lui. Vuole fare cingomma, ma non le può fare cingomma. Proprio stanotte non è che può fare molta cingomma. Lo so che non è di fronte che è saturo, deve aver attaccato il lineare. Sì, vabbè, sentaccia, io stavo staccando, tocca fare il QRT. Ehi, ehi, Fabi, no, non ti fa assolutamente niente. È Santiago 7, adesso è passato a Santiago 9, ma ci vuole ben altro, dai. Mica attacco di neve, io mi... ti faccio prima, sai cosa faccio? Per parlare con te, sento una mancanza di cavo e sarà vicino all'antenna, sei contento? Ehi, ehi, ehi, non c'è problema. No, io ho l'antenna verso... vabbè, adesso un po' spostata verso la spunta. Però se la giro verso San Camillo, vediamo dove arriva sta portante, no? Ascolta, sei attenuato e gli arrivi 9.40. È sufficiente. Se l'hai sentito a Massimiliano e via Nufficio nella bassa valle, sono a fondo scala. Aspetta che ti alza, fai il giocuto. Dai, io sono 11:30, fate divertire anche a me ogni tanto. Poverino, metto lineare dentro la Romagna un anno e mezzo, eh. Ascolta, arrivi dopo l'ultima stacchetta del target, la pacchettina, l'ultima di questa stazione, che non è neanche segnata, perché finisce 9.30, poi c'è uno spazio e poi c'è l'ultima tacchetta, no? E la lista è a metà, ti dico che sei boh, tipo 9.45, sei vicino all'ultima tacchetta, ti dico che sei 9.60. Tu hai passato, allora sei parallelo all'ultima tacchetta, un millimetro più avanti. Figurati tu, c'è un caldo qua dentro, Fabio, guarda, me ne ho tolto anche la maglietta, sono a petto nudo e finestra aperta, c'è il termometro, c'erano intorno ai 21 gradi, cioè 26. Ma vento è c'hai? Sì, sì, all'interno del vento è abbastanza freddo, sta dissipando un calore dall'uscita da dietro, allucinante, sembra che siamo nel deserto del Sahara, ragazzi. Ma riesci a vedere i tubi? Sì, sono viola. Ehi, non te ne di viola, poverini, cazzo, mica, si consumano un bel quando sono viola, amici. Ehi, già ve ne arrivavo, già mi dai tu. No, per quello il discorso, bisogna stare attenti che non diventino viola. Ti posso dire che l'identificato di un certo livello, audio, cioè, robettina che costa a partire dagli 8-9 mila euro, dai. Così, il trucco è quello, devi tenerla poco sotto il viola, poco sotto. Sì, non è viola, no, però già si colora quando schiaccio, dai. Poi quando fai passaggi lunghi mi piace perché tira fuori il calore e mi arriva la pitorra. C'avevamo un lineare così, tu, io mi ricordo. Se ti ricordo Antonello cosa c'avevamo. C'avevamo per mano, un giorno ho fatto... Non ricordi coso, come cazzo si chiamava? Quel camionista, Lomberoni. Già me lo ricordo. Sì, la sera allora c'era il portiere alle 9.22, quello era che vado, ma non si poteva usare. Non so, ci vuole, ogni volta schiacciavo la portante ci voleva uno giù a sollevare il contattore, cazzo, per carità. Quindi non ne ho comprato più di quelli così grossi con le 3500Z. Preferisco questi a tubi 872, 726, tubi buoni, dai, però non così grosse le valvole. Allora, il giorno era un po' bevuto, mi stavo, era un po' eccitato, e Antonio aveva tutto fuori una camera eco al nastro. Mi ero messo lì a aggiustare il naso, pulire le tessine, vado a trovarla e gli facevo la voce cambiando la velocità, no? Spesso dicevo con la voce da bambina. Ecco, se 80 attaccavo il lineare e uscivo, non mi ricordo quanto era quanta roba, forse più di un chilo, quanto, un paio di chilo, quanto. Poi attaccavo il lineare, gli abbassavo la potenza e uscivo con un fatto. Non ti dico, l'ho fatto uscire in testa. Guarda, ti giuro che un fratello, se c'è Massimiliano l'ascolto te lo può dire, questo era un anno e mezzo dentro l'armadio l'amplificatore, non li uso io così grossi. Oggi mi sono un po' girato le balle, ho detto beh, se lo tolgo lo faccio andare. L'ho messo all'angolo e siccome l'avevo fatto tutto revisionare l'anno scorso, capito? L'ho messo all'angolo e ho detto beh, stanotte proviamo a vedere se c'è un po' di propagazione. Ma vabbè, fottiti, magari ci vediamo di persona e me lo dici cosa è successo. No, niente Fabio, assolutamente, te lo dico tranquillamente. Non è successo assolutamente, stavo scherzando quando sono entrato e ti ho detto che facevo quello che mi piace, sai che io scherzo sempre. No, così uno sfizio, ma domani lo tolgo perché c'ho anche la radio che non ha bisogno di niente, c'ho i K che fanno sempre i 600 watt, ce l'hanno, c'ho il Cobra che addirittura ne ha 200 di watt, quindi non ho problemi di potenza. Però volevo provarlo perché da quando l'ho fatto mettere a posto non ho messo le parole nuove, tutto revisionato, non l'ho mai più usato in HF, capito? K. E vabbè, sembra che stia andando bene, occhio e croce, magari non sei neanche a manetta. Ui, ne sto dando 30, 45, 50 watt d'ingresso. Ne riceve 100, figurati tu. Già permette. Claudio, piacere come al solito. Io vi saluto. Stavo parlando con Gianni, però il corso è complicato. E ci sentiremo sicuramente anche domani, un po' con tutti. Antonello, guarda WhatsApp, che così vedi i lavori che ho finito stasera. E niente, saluti circolari a tutti, dai. Spero che ci sia ancora Marco dormendo, eccetera. Ci sentiamo domani. Io, d'accordo, già lo guardo dopo. Guarda tu un messaggio che ti ho mandato. Andate a domani, dai, stammi bene, ci sentiamo. Beh, fa poco regala la parte dove ci va quella. Ehi ragazzi, state chiudendo, dai, io sono qua. Sono andato a prendermi una cicca. Va bene, va bene. Ciao Fabio, piacere averti ascoltato, dai. Già ci aggiorniamo. Ma ci vediamo ancora. Cazzo, non c'è più nessuno, manco Scaldera abbiamo fatto l'amplificatore. Tocca andare alla caccia di qualcuno di fuori. Sa che sto guardando in colletta, capito? Cosa fa? Sto causando in colletta, sono troppi fatti. Le devi dare un po' a me, un po' a Lello e un po' a Marco, un po' ce li dividiamo così, almeno facciamo un po' tutti la voce grossina. Troppi fatti, sono troppi fatti, ma non so. Non c'è bisogno, aspetta, sistemiamo quell'aggeggio, ti faccio vedere che caro lo stavamo rotto, ma noi facciamo anche il sindo. Ma qual è il ufficio come quella volta lì? Che ci mettiamo a bruciare le antenne, questa volta cosa vuoi fare? Vuoi bruciare la righiera del terrazzino? Non ce la fai più, no, Antonio, sei troppo piccolo, prima eri grande, adesso sei piccolino. Una volta, lasciamo che la posso... È troppo piccolino, non ce la fa più. Claudio, facciamo il passo, passo, lucchetto, lucchetto, passo. Ci facciamo le gare, facciamo come una volta. Perché sono senza quello, guarda, mi manca tanto. Adesso lo sistemo, guarda, lo sistemo veramente. Così almeno mi diverto un pochettino. Tanto il cavo ce l'ho. 15 metri di cavo, voglio già basta e avanzano. E me lo mangio a pranzo e a cena, Claudio. Ah, bravo Antonè, che non siamo più ai tempi che eravamo prima, che io non li uso l'ideale. Ti giro solo l'antenna e tu sei morto. Lascia perdere, non giocare con me che perdi. Che prima eri... avevi anche un lineare più grande, facevi altre cose, ti usavo il baracchino, tu usavi l'FT250, adesso le cose sono cambiate. Te lo sogni tu di passare a me. Centro, nord e sud di Sardegna, sei morto, anche dentro Sassari sei morto. Aspetta. Oh, yeah. Quanti cavalli c'hai in macchina? Chi? Quanti cavalli hai in macchina? Io, 150. Vabbè. E allora, mai ti viene? Io ho un'Alfa 147 multijet 1009, 150 cavalli. La piccolina, dai, cucciola. E allora non fa, pensavo che fosse più macchinona. No, non mi basta quella, lascia perdere. Non ho più macchine di macchine io. Oh, soldi, ne ho buttato tante macchine, ne ho avuto tantissime, più grosse anche di quelle. Però basta. Adesso sì, mi piace avere la macchina bella, grande. Sicuramente quest'anno la cambiamo, perché c'è la possibilità. Volevo cambiarla l'anno scorso, poi sono successe altre cose e ne ho cambiato. Quest'anno vediamo se ce la faccio. Quasi, insomma, prima di fine anno, dai. Però prendo sempre l'Alfa, mi piace troppo la Giulia, quella nuova che è uscita. Guarda, la macchina che stai guardando mio padre prima di andarsene, ti dico solo questa. Mi piaceva, pensava di dare la sua e tenersi quella. Però rimango su quattro anelli. Basta, Alfa, basta. Tu non lo sai quanti soldi ho fatto guadagnare io all'Alfa Romeo. Non ne hai la minima idea, capito? Già lo so Fabio, già mi ricordo. Già mi ricordo, non ti preoccupare. Però io Alfa non ne ho mai avuto, io ho avuto Audi, Volvo, il V40, il 50, l'Audi a trazione integrale, il 2000. Ho avuto un sacco di macchine belle. L'Alfa mi è sempre piaciuta per la grinta che ha e tutto. Questa è una bestia, eh. Una bella macchina. Però c'ha già gli anni sui e quindi è arrivato il momento. C'ho 350.000 km e ho fatto solo 5 distribuzioni. Se ti dico che consuma un chilo d'olio all'anno, ti sto dicendo una bugia. È perfetta. È perfetta. Infatti mi ha fidato, papà, ma la facciamo rifare tutta nuova, la carrozzeria, gli interni sono in pelle, nuovi. Dove è Tasco? Lascia perdere, si cambia e non se ne parla più. Cazzo. No, io ultimamente sono Audi. Ormai sono... 15 anni, 15 anni che io sono auto. Mentre abbiamo avuto di fila il 2000 turbo dell'Alfa, benzina, 5 volte, sulla 164 e sulla, che cacchio era, 166, però stesso motore, uguale, identico, si ci cazzo, 251 cavalli, il problema era che ogni volta un fanalino, un cavo di paraurti, il motorino dello sportello, il kit guarnizioni di scarico della 166 era, mi sembra. Insomma, ogni volta erano 500 euro, capito? Ogni volta 500 euro. All'Alfa io ripenso, ogni volta 500 euro, ho mollato. Lo so, io avevo l'Audi a trazione integrale, quindi lo so, sono altri tipi di macchina, mi divertivo molto quando pioveva, poi c'era la trazione permanente, una macchina attaccata a terra che va molto bene, però la 147 avendo le barre stabilizzatrici è una macchina che tiene strada, cammina come un demonio e mi ha sempre soddisfatto. Quindi voglio provare nuovamente ancora Alfa, perché volevamo prendere la Giulietta, invece io non ho provato la Giulia, ma ne sono sceso più, troppo bella 2000, non la serie 3 e 3000, il 2000 va bene, c'ha mi pare 220 cavalli, 230 cavalli, quindi la voglia che va bene. Vediamo se c'è Massimiliano, ma sì. Stavo andando qua, ti saluto, dai, saluto anche Lello, anche gli altri comunque. Ci vediamo domani, buonanotte. Ciao Fabio, alle prossime. Antonio, ancora sì? Ciao Fabio. Sì, sono qua. Allora, dai, mettilo su questo VW 2001, oggi facciamo le prove come i vecchi tempi e non se ne parla più, dai, così te ne fai una ragione che tu. Ciao, aggancia, non ti preoccupare. Ce l'ho qua a casa, cosa serve un po' di tempo, però mi voglio divertire come una volta. Il muro di Berlino eravamo uguali di segnare, se ti ricordi bene. Vabbè, la moto va, naturalmente prima era 6 metri di palo, adesso è 3 metri, quindi cambia la situazione. No, io in settimana, ma adesso non lo so, può darsi pure tra sabato e domenica, se domani devo andare da Roberto, devo andare una mano, dobbiamo tirare su una multibanda. Si è preso una multibanda per ricevere, bellissima, la pick-up della marca delle direttive mie, la pick-up W, molto bella, e la mettiamo su. Però vediamo, se domenica ne ho voglia, che il tempo è bello, devo spostare la Mantova da dov'è, portarla sull'angolo dove era prima e tirarla su 7-8 metri. Così elimino un 15-20 metri di cavo, perché mi aggancio alla centralina della commutazione elettronica, capito? Adesso scendo col cavo delle direttive, con la Camille. Quindi già lì ho recuperato sia in ricezione che in trasmissione. Le faccio un po' di manutenzione, dai, che era tanto che non lo faccio. Già va bene. Ah Gianni, ancora sì, ti abbiamo chiamato, dormi tu dici. No, sono adesso a mangiare un pezzo di pane con la brughiera. Io invece ho fatto una spianatina con la Nutella. Facciamo un po' di languore, ci sono andato e ho spento la luce dell'acquario che non avevo dimenticato acceso, voglio andare a letto. E poi mi sono mangiato un pezzettino di pane con la grughiera. Bella fruttitura, ho contato il coso, il salmone, no? E sembrava bello il coso, ho aperto la confezione e c'era solo una fettina di salmone, l'altro era tutto vuoto davanti. Questa bella fruttitura. Allora iniziamo a abbassare la potenza qua. Ecco qua, 50, 60, 200 watt, perché c'è un caldo allucinante. A vedere Antonio, sei voluto, la finestra aperta, sembra in spiaggia, c'è un caldo qua dentro, non si può più stare, sopra i coppietti. Chissà quanto sta sorbendo adesso, ma quello lì va a volare. Eh sì, questo è quello di Camitico. No, preso tutti sai, no? Camitico, va a volare 0,30 della IAI su questo. E un chilowatt e mezzo c'ha di potenza, era a metà potenza. Claudio, ma abbronzando ti stai? Cazzo da me, sciocco, a vedere come mamma mi ha fatto, a finestra aperta, sto schiumando. Ehi, un saluto a Gianni comunque. Ciao Gabi, io sono qui buttando oggi. No, io sono proprio a culo nudo, e faccio gatto pure a culo nudo. E sicuro? Al concamuro di volta. Da dietro. Ma l'intervento, già lo sai, il tuo sicuro è successo, diciamo, a quello. Ma davvero, metto il caldo che c'è fuori, il caldo che c'è qua dentro, sto schiumando. Ma qua si sta bene, ho lasciato la finestra aperta fino a tardi. E vabbè, ma qua c'è la radio accesa, le altre sono tutte spente. L'amplificatore che adesso che lo stacco, mi ha rotto le palle, esci che lo stacco, sennò se giuro mi incendio l'udito, cazzo, mamma mia! Che dolore, bollendo sta. Fallo raffreddare, se ne va una raffredderata solo, capi? Sì, piano piano. Si può cucinare le uova, no? Se l'ho messo la mano sopra, anche me mi allungo, che. Ma parlare, no? Sì, sì, quello grande valvolare, già lo conosci Massimiliano, quello grigio grande. E quanto assorbe? No, boh, non lo so. Ti dico boh, non lo so perché non l'ho mai controllato, però non scatta niente, quindi. Mentre quando avevo il 922 scattava sempre il contattore. Sicuramente, magari col suo di un kilowatt. Sì, sicuramente. Ma l'altro era una cosa pazzesca. Infatti quando ero al nono piano avevo fatto il cambio al contattore a 4,5 anziché a 3. E vedi, quello è utile usarlo d'inverno, che ti fa anche la stufa. Sì, già l'odore a pulire l'armadio, è stato solo così, giusto per provare. Ce lo rimetto davvero, capì? C'ho il B300 io per i baracchini, è più che sufficiente. Ma sì. No, è giusto, sì. Guarda la differenza che c'è, adesso sono liscio col baracchino. L'antenna è sempre la stessa, Guarda la differenza che c'è, calato. Sì, appena, ma è sempre a fondo scala, era. Sì, vabbè, perché sono con l'antenna sempre in quella zona lì, però già cala il segnale. Via, allora ti già. Io guarda, che ci sono fatte, per la notte meno 20. Oggi non trovo un vivo. E Marco è andato a essere in club. Ma che c'era Marco in conto? Sì, ha detto che c'era sonno. Che domani mattina si deve alzare presto per andare a lavorare. Ecco. Sarà uscito a controllare i pipistrelli che ci sono in giro, i suoi colleghi. Resuscitatoci. Allora, mi sono svegliato 10 minuti fa. Mi sono addormentato come una carogna. Avevo il volume al minimo. Proprio drummiddu. Ah, io ancora state giocando con questi ZGB30. Ecco. ZGB30, ZGB30. Rubrefetta. Ma tu prefetta, sì, o prefetto? Buonasera, sono entrato a strappo adesso, sono rientrato a casa. Non so che ci sia, buonasera a tutti. Sei rientrato a strappo? Chi c'è sta benzina sei rimasto? Ehi, a Farenne, in corso Vettore Monore, dai, tutto in farada. Buonasera a tutti. Ciao Gianni, buonasera, ben entrato. Ci sono ancora io, Gianni Doppio Room, Marcolino Condola e Gavino Elettrico, in compagnia di Massimiliano, sicuramente sono assieme, come carabinieri, vai. Salutoni a 360 gradi, dai, salutoni a tutti, e niente, dai, avanti Doppio. Cappa Gianni, dai, mi sentito cordialità anche a te. K positivo. Vabbè, vuoi interagire socialmente con i tuoi simili, no? Quindi a prendere un po' d'aria, ho trovato un paio di amici, mi sono fatto un paio di chiacchiere, mi sono bevuto la mia birretta, le faticante, e ho portato il culo a casa, dai. Già va bene così, non c'è problema. Va bene, sì, quando si sta in amicizia. Sì, ma già fammi capire, Buffè, magari si porta a 360 gradi, due o mica due. Adesso, cazzo, vuole fare il peluzzo nell'uovo, dai, era una metafora, dai. Ah, era metafora, metà dentro. Assolutamente. Gappa, Antonè, vai a salutare la Gianni, aiuto. Ciao Gianni, bavardo, perfetta. Salutoni a lei. Salutoni a tutta la ruota, Marco, Gavino e gli altri che... Vabbè, magari me ne sto prendendo qualcuno. No, niente, dai, ero a fare interazioni sociali, dai, a due chiacchiere, una birretta e... E poi dai, portiamo il culo a dormire, come si dice. È sicuro. Ma qui, interazioni sociali, che senso? Giù, giù. Ascolta già, ma perché non ci è venuta che sei andato a piantare il pisello? No, ripeti che ti hanno... Ripeti. Ho detto, di la verità, che sei andato a piantare il pisello. Dai, Dio ti ascolti. C'ho il tagliaunghie qua in cameretta, ogni tanto mi devo tagliare l'unghia. Via, anche tu. Porca miseria, pensavo di essere solo che... E per il basilio di... Quando mai è caduto via una, ho solo com'era che dice, wow, vieni con me, dammi 5 euro, 10 euro, ti accompagno io. Vabbè. Tempi duri per i vampiri, avanti Gavi, tu sì che te ne freghi, ma non se ne conto pure ancora Massimiliano. No, noi stiamo finendo, stiamo, dai. Un saluto a Gianni comunque. Stiamo finendo, fra poco vi lasciamo, dai. Kappa. Gavi, ma cosa è cambiato? Microfono? No, è sempre lo stesso, è che magari c'era un pochino più a distanza, ora ce l'ho più leggermente più attaccato. Ah, gappa. No, perché mi sentivo leggermente più basso, e sto, magari ho cambiato il microfono. No, oramai vi lascio questo, questo va alla grande, va alla grande. E auguria, auguria che va bene. Auguria. Sì, io sono qua, mia figlia ancora lavora, minchia, finirà all'una e mezza alle due, come ieri, no, ieri è tornata più delle due. Ma dove c'è proprio a Milano? A chi? Italia. No, via Milano. Via Milano, non me lavorate via Milano. Voi a Monserrato, scusa, cosa si dice? Manco a Monserrato. No, Monserrato... Ce n'è andata, boh, 2 o 3 anni fa. Quando ce n'è andata? Ad agosto. Dell'anno scorso. Ad agosto dell'anno scorso mi sta dicendo mia moglie è andata via. Dato di missioni. È modo per... Mo è... ne ha 2 o 3 in attesa del suo. Ma ecco. Appaga. Ma è vabbè. Stai sempre a lavorare. Con questo cacchio di cubo ci stanno, non stanno più rinnovando i contratti, gli altri devono fare cosa tutti sono, non l'hanno fatto, casino, insomma, casino. Giovanni è andato a pezzi cotto comunque. Cosa? Giovanni è andato a pezzi cotto a lavorare. No, rientrate? No, già, mia figlia non ha problemi di lavoro, la verità. L'hanno chiamata lì via Roma. Sono un carissimo amico, dai, se le copriva un mese, perché c'è il personale ancora fuori, capito? Una non so cosa deve fare, boh, serve di provare, non lo so, comunque, le ha chiesto se le lavora tutto il mese, ma sta facendo dalle 5 la sera sino alle 2 di notte, 1:30, alle 2, quindi già lavora lì, dai, non ne ha problemi, ma sta ferma per la quarantena, però già, e poi rientrerà giù a Castelbuono, sicuramente, adesso vediamo, ma comunque già ne ha, dai. È meglio così, dai. No, ma quello lì dovevano fare il contratto ufficio e l'hanno bloccato perché stasera il coronavirus, sai perché come, quindi con questa storia la mia suprema l'ufficio. E non era una grossa comunità di ragazze madri, eccetera, eccetera. Adesso il ragazzo sta facendo l'avvocato vicino e poi... Lo so, i contratti sono bloccati, sì, con questo casino è successo, è chiaro che aspettano novità dal governo. Ma lei c'è un contratto a chiamata, fa questa copertura di un mese e poi sicuramente farà altro, insomma. Anche tempo che sta facendo le cose sue, quindi KK, Gavino, mangiato avete, la pizza avete mangiato? Gavino, non c'è KK! Cos'è che ce ne tieni tu? Parla piano.